che gioca col destino. Soldi, fama, amore, sono il cammino. Sole nero in volo, bevendo il veleno nero del mondo. Bambino magico che gioca col destino. Soldi, fama, amore, sono il cammino. Sole nero in volo, bevendo il nero veleno del mondo. Volevo vivere una vita normale, del tutto normale, per un giorno volando, il bene bussando alla porta, scosse la rotta, portandomi la mano. Volevo vivere una vita normale, del tutto normale, poi la notte camminando, il male bussando alla porta, prendendo la mano. Forse le due direzioni, lontane dal normale, frizioni d'anima, strane al sapore di sale, volare oltre il corpo, in cerca di equilibrio, vitale troppo, spesso violato in ebrio, profumi di soli, nel mio naso volo raso e al contempo alto, tra bene e male, in un incanto da armonizzare. Bambino magico che gioca con il destino, soldi, fama, amore, sono il cammino, sole nero in volo, bevendo il veleno nero del mondo. Ora vorrei una vita di incanto, del tutto speciale, troppi giorni tristi, incanto, fanno male, sotto il sole diretto, che sto coltivando, come cane in fiore, lavandovi il dolore. Ora vorrei una vita di incanto, del tutto speciale, troppi giorni tristi, incanto, fanno male sotto il sole diretto, che sto coltivando come cane in fiore, lavando via il duro dolore. Bambino magico che gioca con il destino, soldi e fama, amore, sono il cammino, sole nero in volo, bevendo il veleno nero del mondo. Vorrei in un giardino di rose salire, lavare, purificare la dose del veleno mortale che ancora m'affligge, purificando l'umano mio equilibrio nel mondo. Vorrei in un giardino di rose salire, lavare, purificare la dose del veleno mortale che ancora m'affligge, purificando l'umano mio equilibrio nel mondo. Che gioca col destino, soldi e fama, amore, sono il cammino, sole nero in volo, bevendo il nero veleno del mondo. Il nero veleno del mondo. Volevo vivere una vita normale, del tutto normale, poi un giorno volando, il bene bussando alla porta, scosse la rotta, prendendomi la mano. Volevo vivere una vita normale, del tutto normale, poi la notte camminando, il male bussando alla porta, prendendomi la mano. Bambino magico che gioca col destino, soldi, fama, amore, sono il cammino, sole nero in volo, bevendo il veleno nero del mondo. Sole nero del mondo, bevendo il veleno.